Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe. Ça fait déjà un femme bail. Ça fait déjà un femme bail. Quanto siete convinti di conoscere le persone che avete attorno? Ma perché dovreste poi conoscerle a fondo? Perché probabilmente ognuno di noi si innamora di un'immagine di ogni persona che frequenta nel corso della sua vita, iniziando dai sacri e intoccabili genitori, dai fratelli, dal circolo dei primi amici, poi gli amori, poi le persone con cui dividiamo la vita, poi i colleghi, poi la gente che frequentiamo in maniera più costante. Ogni tanto capita che la vita ci dia delle sorprese. Ma perché ci sorprendiamo? Perché vediamo le persone diverse rispetto a quella idea che noi ci eravamo fatta di loro. E allora iniziano i problemi, iniziano gli stravolgimenti, iniziano le angosce, iniziano le corse da psichiatri, psicanalisti, psicoterapeuti, per dire cosa ci sarà in me che non va. Quando semplicemente noi ci eravamo fissati che una persona fosse in una certa maniera e scoprire che una persona ha degli aspetti che non ci ha voluto comunicare della sua vita, della sua personalità, del suo quotidiano ci sconvolge. Se guardiamo un attimo in noi stessi, vediamo quanti aspetti abbiamo di noi, quante parti di noi, quanti giardini segreti o inferni segreti noi coltiviamo, che non comunichiamo nemmeno con la persona con cui dormiamo ogni notte o con la quale dividiamo la scrivania o con la quale abbiamo passato assieme parte importante della nostra vita. Perché dovrebbero gli altri farlo con noi? Beh, oggi la trasmissione è proprio dedicata a questo, al capire il perché ci sorprendiamo tanto quando ci rendiamo conto che quella che noi chiamiamo conoscenza di una persona è semplicemente, giustamente, secondo me, correttamente, una conoscenza parziale. Non esiste il possesso totale di tutto l'immaginario, di tutto il vissuto, di tutte le azioni di una persona. Eppure nella nostra insaziabile fame di possesso, noi pensiamo che questo sia possibile. E questa è una farsa magra, chamber culo a mandolino, io macchia a petteri. Ciao re! E certo, in mezzo ai mascalzoni. Arrivo da mangiare tutto un bicchiere di vino. Livia, ma che fai? Bevi? Ma non sei astemio? Bevi la mattina? Dammo bianco e secco. Bello gelato, tieni. Becca di sto quartino. Oh, grazie. La salute lì. Secondo me, non era regolare. Guarda che bicchiere di vino che si beve. Buono! Te l'avevo detto. Grazie. Prego. A mandolino. Chi te chiappetti tu? Ce l'hai con me. Sì, ce l'ho con te, con quello stronzo d'amico tuo. Un complimento, sto no? Complimento lo vai a fare tua sorella. E andata a piangere con tutte e due. Non hai mai parlato così a casa? Ma roba. Pronto? Sono Livia, la moglie di Fabio. Ma come non mi riconosce? Ha telefonato tante volte a casa mia. No! Come no, non partire dall'esempio che tutti noi rappresenta, che è sempre Alberto Sordi. Volenti o nolenti, un Alberto Sordi alligna in ognuno di noi. In questo caso Alberto Sordi e Monica Vitti sono i coniugi Bonetti, una normalissima famiglia di un serio professionista e la sua onorabilissima moglie. A un certo punto Sordi scopre che la moglie è seguita e filmata da un investigatore privato. È un film degli anni Ottanta, ancora gli investigatori privati giravano filmini in Super 8, quindi è molto divertente. C'era semplicemente stato lo sbaglio di una persona, lui doveva pedinare un'altra persona, la moglie di un politico, ma già che c'è, Alberto Sordi dà un'occhiata a questi film della moglie e si accorge improvvisamente che la moglie è tutta un'altra persona rispetto a quello che lui pensava. C'è una scoperta graduale, a volte sorpresa, a volte dolorosa, a volte anche sul filo dell'eccitazione, che la persona con cui lui viveva era totalmente, o perlomeno non totalmente, aveva degli aspetti per lui totalmente sconosciuti, di cui non sospettava. E com'è possibile che la persona ci sta accanto a degli aspetti che noi non conosciamo? Coltiva dei luoghi segreti nel quale noi non possiamo accedere. 800240024. Quante volte vi siete fatti questa domanda? Quante volte avete sbattuto la faccia nella dura realtà che questa domanda in realtà vorrebbe nascondere, sottacere? Ah, buongiorno. Buongiorno, si accomodi. Grazie. Un'oliveta, un pezzetto, no, di formaggio. Niente. Valeria. Senta, le posso dare del tu? Sei stata per molto tempo l'amante di mio marito. Ah, no, non è vero. È vero, è vero. L'estate scorsa mia figlia Veronica vi ha sorpreso a letto insieme, nel nostro letto, nella nostra casa di campagna, va bene? Io non me ne sono accorta. E beh, dormivate, siccome eravate tutti nudi, mia figlia è una personcina educata, vi ha lasciato dormire. Beh, se lo dice sua figlia, io non credo che possa negare. Ma sì che devi negare. Ecco, però io me ne ero accorta molto tempo prima che Fabio ci aveva una mano. Andando avanti nella scoperta e nella calata dell'inferno di Alberto Sordi, la moglie incontra l'amante. E si apre un'altra vicenda, un altro gioco degli specchi. Lui si sorprende che la moglie sappia che lui avesse un amante, cosa che lui teneva nascosta. Quindi Alberto Sordi, quindi il soggetto, noi che ci poniamo questa domanda, abbiamo comunque dei segreti, ma non tolleriamo che la persona ci sta accanto li abbia. E ci sorprende sapere che questa persona è al corrente di alcuni dei nostri segreti e ci tiene il segreto dei nostri segreti. Infatti il film non a caso si chiama Io so che tu sai che io so. Devi sapere, Valeria, che i rapporti sessuali tra me e mio marito sono sempre stati un po', diciamo, posso dire, tiepidi. Ma tiepidi? Anche con me, piuttosto monotoni. Sì. Pure. Ecco, poi una sera di 3 anni fa, debotto, torno a casa e i suoi rapporti a letto sono diventati tutta un'altra cosa, sono cambiati in maniera rivoluzionaria. Addirittura? Era scatenata, non aveva più limiti. Come faccio a spiegarti? Le faceva fare certe cose che non si possono ripetere. Ma che stai dicendo, Livi? Insomma, la sua fantasia erotica era senza limiti. Addirittura? Aveva semplicemente incontrato te. Vabbè, anch'io mi ero stufata di fare l'amore nella posizione del frate. Eh? Come la posizione del frate? Nella posizione del frate, donna sotto e uomo sopra. Ma che gli vai a raccontare, Valeri? A quali? A quella posizione del frate? Calli, figurati. Adesso scopre che quella è la posizione del frate. Beh, sarebbe la peggio. Non a tutti capita questa fantastica occasione di vedere proiettato il proprio immaginario, coerente e concreto, dare corpo a tutte le proprie immaginazioni, vedere la moglie e l'amante, o il marito e l'amante, e in colloquio davanti a un quarto di vino, raccontarsi i propri segreti personali e giocare nel rimbalzare di questa immagine di se stesso nel racconto di due donne. E in questo caso lo sconcerto e la sorpresa di scoprire mondi paralleli nei propri affetti viene in parte compensato dalle piccole gratificazioni nel sapere che quella monta improvvisa di desiderio erotico causata dal rapporto con l'amante veniva apprezzato dalla moglie. È un discorso molto complicato, è un discorso che per affrontarlo attualmente ci affidiamo a una persona che di questa materia ne mastica, che è Gianna Schelotto. Gianna Schelotto, buongiorno. Buongiorno. Gianna Schelotto è una mia amica, primo, poi psicologa e autrice di Noi due sconosciuti, Viverti accanto e non sapere chi sei, che è il suo nuovo libro edito per Mondadori. Gianna Schelotto scrive libri sotto forma di fantastica interpretazione romanzata, però so che trae spunto comunque dai casi clinici dei suoi pazienti o perlomeno delle persone che si rivolgono a lei. In questo caso, Gianna, qual è l'ambito che sei andata a scandagliare? Non so se nella mia introduzione l'ho reso abbastanza. Io poi personalizzo sempre il tema dei libri che leggiucchio, quindi vediamolo riportarlo in quello che tu volevi veramente dire. No, l'hai rappresentata egregiamente. Il tema è proprio quello di avere dentro di ciascuno di noi ha dentro di sé parti che non rivela, cioè come dei confini oltre i quali non permette a nessuno di entrare. E questo lo troviamo normale, lo troviamo accettabile, però quando pensiamo che anche le persone che ci sono accanto possono avere un proprio giardino segreto che ci è inaccessibile, immediatamente ci inquietiamo, nasce l'ansia, nasce la preoccupazione, cioè siamo pronti a difendere i nostri confini, ma ci dispiace di essere esclusi dai confini degli altri. Noi vorremmo spodestare le persone per le quali proviamo affetto o attaccamento o pretendiamo che siano a noi affettuosamente legate dal diritto di avere i giardini segreti. Come dicevi giustamente tu, c'è questo senso di possesso, questa paura che l'altro ci nasconda delle cose senza però ammettere, senza però guardarsi dentro e senza capire che, come abbiamo noi i nostri segreti, come, ma poi voglio dire, quando si usa la parola segreto si inserisce subito un elemento di ansia. In realtà ognuno di noi tiene per sé eventi, episodi, affetti, sensazioni, fantasie, sogni che sono assolutamente innocenti rispetto al rapporto con l'altro, e quindi dentro questo ci può stare anche il bisogno di preservarsi, il bisogno di mantenere intatto un pezzo di mondo, il mondo che c'era prima che incontrassimo l'altro. Ma vale il principio, Gianna, che più uno ha la coda di paglia, più è terrorizzato dai segreti che possa avere l'altra persona? Certamente, certamente, perché naturalmente noi viviamo di proiezioni. Quasi sempre la gelosia è una proiezione, cioè uso me stesso come misura dei comportamenti, e siccome io mi comporto in un certo modo, immagino che anche l'altro si comporti in un certo modo. Se io tradisco, immagino che l'altro possa tradire a sua volta. Quindi siamo pronti a proiettare tutte le nostre i nostri peccati, diciamo, tra virgolette. E tu hai trovato questo filo comune, diciamo, nei colloqui con le persone che si rivolgono a te, che molte volte la ragione, la radice delle ansie, delle angosce, del fatto che uno vada a parlare con un terapeuta, è dato dal fatto che non ammettiamo che l'altro abbia segreti. Sì, prima non ammettiamo che gli altri, cioè che parli, che racconti ad un estraneo, ancorché terapeuta, cose che probabilmente non racconta a noi. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che il marito o la moglie, cioè quello che rimane fuori dalla stanza del terapeuta, immagina di essere l'imputato, immagino che si parli soltanto di lui, e quindi da questo è profondamente inquietato. Quindi vedi, era il riferimento che avevo fatto a Alberto Sordi, che guarda in un filmino la moglie e l'amante che parlano di due, esattamente questa triangolazione di cui parli te. Esattamente. Sentiamo qualche ascoltatore. Umberto, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno dottoressa. Cosa le è accaduto? No, una mia carissima amica, proprio in questi giorni, dopo un rapporto di 4 anni, stupendo, con una persona, purtroppo ha scoperto che questo passava tutte le notti in chat pornografiche e gli è crollato il mondo. Perché dice purtroppo gli è crollato il mondo? Lo dice lei. Cioè mica rubava niente a nessuno alla fine. No, certo, ma lei pensava di, sotto quel lato, di completare, come si dice. Ah, quindi lei non si è sentita più all'altezza delle fantasie del compagno? Guardi, io conoscendola bene, guardi, non capisco neanche io perché, però ognuno del suo, cioè, cosa vuol dire conoscendola? Personale. Che vuol dire Umberto, conoscendola bene? Splendida. Umberto, no, non l'ho provata. No, non l'ho provata, mica un'automobile. No, nel senso che è una donna che secondo lei ha temperamento, quindi non dovrebbe esserci questo problema. E perché l'ha raccontato a lei, Umberto? Perché sono più il suo carissimo amico, siamo come fratelli. E dopo che l'ha colto in questa operazione fanciullesca, come è finito il rapporto fra loro? Loro, niente, gli ha messo davanti a questa cosa, lui ha continuato sempre a negare, ma alla fine poi... Questo è stato un momento di debolezza. No, lei... proprio riuscita a seguire la cosa, la forza di seguire per mesi questa cosa. Scusa, c'è il compagno passa le notti, adesso non voglio entrare nei partiti, ma... Quando... Non vivono assieme. Ah, non vivono assieme? No. Ah, beh, stando lontano, però scusi, avrebbe preferito... Praticamente per avere la certezza si è scritto con un, come si dice, un falso nome, insomma, anche lei sulla chat. E è stata a sua volta oggetto delle attenzioni. Sì. Beh, c'è una sorta... sembra... No. Sembra il filo narrativo del romanzo Miyazaki, La chiave. Condividono un segreto in un luogo terzo, che tutti sanno che in realtà ci sono anche loro. Che ne dici, Gianna, di questa fantastica storia? La signora è inquieta perché si sente esclusa da un mondo nel quale a sua volta vuole entrare. Avrebbe gusto anche lei di starci, certo. Esattamente, del quale a sua volta fa parte. Questo senso di esclusione la fa soffrire, proprio perché non c'è condivisione, e lei vorrebbe essere l'unica protagonista del mondo erotico del suo compagno. Comunque mi sembra che sulla strada della risoluzione, visto che anche lei si è introdotta nelle chat zozze, prima o poi si ritroveranno assieme in qualche villetta dei Castelli Romani o qualcosa del genere, probabilmente. Vincenzo. Pronto? Eccolo, che è successo? Buongiorno. Volevo prima di tutto fare complimenti per il modo di esporre i suoi interrogativi, la seguo da anni, per cui mi fa piacere. piacere che ci siano delle andiamo persone come lei. Andiamo al punto. Quindi voglio esprimere brevemente questa cosa. C'ho un'idea del tutto personale su questo concetto di segreti e roba del genere. Questo concetto sul rapporto d'amore, rapporto di coppia, che è quello che tramanda esplosioni sia negativo che positivo in assoluto. Io credo che i segreti spesso si nascondono perché alla base non ci sia un amore di quelli là a 360 gradi, per cui a volte i segreti vengono usati per avere un motivo magari per tradire, per confidare i propri segreti. Scusi Vincenzo, l'amore totale prevede il diciamoci tutto. Ci amiamo e ci dobbiamo dire tutto. Io penso così, è una visione. Ma pensi che tristezza, personale. Che cosa triste, sapere tutto di una persona e dire tutto a una persona. Io durerei 30 secondi se dicessi tutto quello che mi passa per la testa alle persone a cui voglio bene. Gianna Scalotto. Non dice mai tutto. Ma perché c'è questa idea che è molto moderna, che quando ci si ama occorre dirsi tutto? È una cosa anni 70, scrive nel tuo libro. Ci sono stati dei momenti dell'autocoscienza in cui bisognava dirsi tutto. Cara, sai, questa mattina ho copulato con la tua collega d'ufficio. Sì, caro, anch'io l'ho fatto con il ragioniere che viene tutti i giorni a casa nostra. Bene, noi siamo una coppia aperta. Era questo un po' lo stile. Sì, ma quell'esperimento sappiamo benissimo è che andato non malissimo. Ha funzionato, perché poi anche quelli che dicevano tutto, la cosiddetta coppia aperta, a un certo punto chi frequentava la coppia aperta aveva bisogno di ritagliarsi uno spazio che fosse rigorosamente chiuso. Diciamo che la fortuna degli psicoterapeuti, psicanalisti e psichiatri degli anni 80-90 sono state le coppie aperte degli anni 70. Esattamente. E ancora i loro figli continuano a essere i vostri migliori pazienti. Infatti, è proprio così. Marco, buongiorno. Marco. Pronto? Ecco, pronto, mi sente? Sì, come no, ascolto. Buongiorno, no, perché ero occupato, stavo ascoltando la radio, ero occupato sul lavoro. Aveva un suo segreto che non ci vuole dire? No, beh, io avevo appunto anch'io un'idea, visto l'argomento abbastanza, diciamo, attuale, ecco. Prima di tutto mi faceva sorridere appunto il film che avete messo sotto di Alberto Sordi, che parlavate della posizione del frate, poi pensavo a Silvano Tranquilli, che era padre Tobia in quegli anni, insomma, mi veniva da sorridere. Che poverino, poi infatti è finito anche suicida, qualcosa del genere, mi sembra. Poverino, sì, perché era un attore, diciamo, era un attore molto, molto... Adesso, lasciamo perdere i ragazzi di padre Tobia e le posizioni del frate, andiamo al punto. No, dicevo che appunto... che non è bello poi associare padre Tobia ai suoi ragazzi. Appunto, sì. Che secondo me i giardini segreti bisogna coltivarli, ecco, secondo me, perché se poi le conclusioni sono queste, è bene che ognuno abbia i suoi segreti, purché non faccia danni. Perfetto, che ognuno abbia i suoi segreti, noi siamo perfettamente orgogliosi, sicuri che dobbiamo avere i nostri segreti, ma ammettiamo che li abbiano gli altri, le persone a cui vogliamo bene. Questo è il punto. Questo è il tasto dolente, che non siamo preparati nel momento in cui scopriamo qualcosa che a noi... Ma non dico scoprirli, diciamo che il vero cornuto, come ci insegna Barbara Alberti, è colui che si accanisce e vuole sempre sapere, avere la prova delle sue corna, è così. Però, diciamo, possiamo ammettere che esistano senza avere la necessità di scoprirli? No, ma scoprirli anche involontariamente, senza accanirsi, signor Nicoletti. Ecco. Sì, certo. Perché tante persone magari vengono a scoprire certe situazioni anche senza avere quella mania di gelosia. Sì, capita trovare, che ne so. La vivono in maniera totalmente diversa e più leggera, ecco. Io penso che ognuno di noi... Se capita di trovare una filettatrice da idraulico sotto il cuscino, uno può anche far finta di niente, mica detto per forza ci sia un segreto dietro. No, penso che tante volte, tante cose si potrebbe anche non dirle, non sono d'accordo. Io sono della scuola che non bisogna mai dire nulla. Sono della scuola che non bisogna mai dire nulla. Tenersi i propri segreti e avere lo stomaco e la forza, e vincere, che è una riottosità che fa parte della nostra natura, la smania è voler sapere i segreti altrui, anzi, coltivare l'idea che altri abbiano segreti, su questo magari costruire castelli amorosi, se fosse possibile. 800 24 00 24, andiamo avanti nella seconda parte, dopo l'informazione della borsa. Tenete bene conto che il libro di Gianna Scalotto non parla soltanto del rapporto coniugale, i segreti possono esserci anche fra genitori e figli. figli, anche fra fratelli e sorelle, ma andremo avanti tra un istante. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. L'uso continuo di falsi nomi non si accorda con la tua storia di aver avuto la tentazione improvvisa e irrefrenabile di commettere un furto non premeditato. Beh, se tu avessi rubato circa $10,000, non ti cambieresti almeno il nome? I motivi di quello che ho fatto alla Rotland sono molto complessi. Volevo dirtelo anche prima. Ti chiami proprio Margaret? Marnie. Sì, così può andare. Ti ricordi quel giorno alle corse quando mi parlaste di quel cavallo che si chiamava Telepathy? Mi sono ricordato che avevi detto di averlo seguito sin da quando aveva 2 anni. Era tutto quello che sapevo. E ho cominciato da lì. Ho scoperto che apparteneva alla scuderia del colonnello Marston in Virginia. Ho telefonato a Marston e gli ho chiesto se conoscesse nessuno da quelle parti che noleggiasse cavalli. Lui mi ha dato 3 indirizzi. Stiamo parlando dei cosiddetti giardini segreti, che molte volte non sono proprio dei giardini, magari sono orticelli un po' incolti o magari sono sterpaglie, ma che ognuno ha diritto di coltivare in solitudine o di frequentare in solitudine senza necessariamente trasferirne l'ubicazione esatta al proprio partner, al proprio amico, al proprio genitore, fratello, vuoi che sia. Lo facciamo ispirati dall'ultimo libro di Gianna Schelotto, Noi due sconosciuti, viverti accanto e non sapere chi sei, edito da Mondadori. Lo facciamo con i nostri ascoltatori. Quello che avete sentito è un brano tratto da Marnie, il film in cui Sean Connery scopre una affascinante ragazza che è una ladra e capisce che dietro poi c'è stato un trauma infantile che lui tenderà a rimuovere facendoglielo rivivere. Una cosa abbastanza complicata, ma dà l'idea comunque che ogni persona che noi frequentiamo ha qualcosa dentro che non necessariamente debba avere voglia, desiderio o sia necessario che noi lo sappiamo. Ma perché poi siamo invece così spinti dal desiderio di conoscerlo? Nella prima parte della trasmissione ci siamo soprattutto concentrati sul rapporto coniugale, che è quello che in realtà crea ferite più dolorose nella contemplazione del cancello dell'orticello segreto attraverso il quale non possiamo passare. Nel libro di Gianna Schelotto c'è una citazione a una pièce teatrale di Indro Montanelli, che è anche molto divertente, il petto e la coscia, vengono fuori dissapori coniugali di fronte a un pollo arrosto. Nelle ritualità culinarie quotidiane si capisce che improvvisamente, quando il marito scopre che la moglie, che mangiava sempre il petto, preferisce la coscia o viceversa, non ricordo bene, si apre un angoscioso dilemma. Gianna Schelotto. Sì, esattamente così. Questo marito ritorna a casa inatteso e, come nelle migliori commedie borghesi, ci si aspetta che trovi la moglie con l'amante, invece no, trova la moglie seduta a tavola che sta mangiando voluttuosamente una coscia di pollo. E lui, che per tutta la vita ha pensato, per i 20 anni quantomeno che siano stati insieme, ha creduto che la moglie del pollo gradisse soltanto il petto, comincia a interrogarsi su quante altre cose di questa donna non sa, e scoprono man mano che la discussione va avanti, che diventa litigio, che diventa rissa. Ognuno dice all'altro: tu credevi mi piacesse la montagna, invece mi piaceva il mare, tu mi portavi alle serate ai concerti di musica classica, invece mi piaceva Celentano, e così via via. Per tutta la sera questi due mettono le carte in tavola e scoprono di essere stati, di aver vissuto per 20 anni con delle immagini fasulle di sé, perché appunto ognuno dei due voleva nascondere se stesso, ma nello stesso tempo compiacere l'altro, voleva essere come credeva che l'altro lo volesse. A volte, perché anche meno fatica, sai, compiacere l'altro piuttosto che rivendicare le proprie esigenze, uno lascia correre, dice vabbè, certo. Però si maturano delle illusioni terrificanti, e quando viene redderazione si maturano anche delle aggressività. Cioè, se io sono costretto ogni giorno ad essere diverso da quello che sono, poi a poco in questo mondo dove dovrei nascondere soltanto sogni e fantasie, comincio a nascondere aggressività, rancori, risentimenti, e lì possono nascere i tradimenti. Di lì poi nasce lo sconosciuto vero, cioè quello che non è più l'innocente che conserva un mondo infantile dentro di sé, ma è quello che mi inganna, quello che mi tradisce, quello che mi sorprende veramente. Certo, l'ideale sarebbe avere la leggerezza per poter non concentrare tutta la propria emotività in un rapporto e riuscire a destreggiarsi in maniera sublime, lieve e indolore tra i castelli segreti e il vivere quotidiano, ma questa è una formula difficilissima. Sì, però bisogna anche sottolineare che se io immaginassi che il compagno della mia di sapere proprio tutto del compagno della mia vita, sarebbe come un libro già letto. Cioè, invece a me piace pensare che forse un giorno troverò una pagina che non ho ancora letto, che mi sorprenderà, che non renderà tutto così prevedibile. Cioè, forse è questa la chiave di lettura dei rapporti affettivi nei quali appunto ognuno accetta il giardino segreto dell'altro. L'ansia è un arricchimento del rapporto di coppia. L'ansia è molto difficile da gestire. Sentiamo Alberto. Spenga la radio però. Sì, eccomi qua, buongiorno, chiedo scusa. Innanzitutto cordialissimi saluti, lei e la sua ospite, un grande tributo di stima a entrambi. Io a proposito del fatto della scoperta dell'altro, sentendo la sua ospite, stavo pensando anche al doppio gioco di Schnitzler, poi tradotto da Kubrick nel film, no? La scoperta dell'altro, ma non è questo di cui le volevo dire. Io nella esperienza sono stato scoperto, sono quello che rientrava tante sere e credeva che la propria compagna, la propria moglie da 20 anni in realtà non avesse cura di questo rapporto. Invece proprio nel momento in cui ha cominciato a sgretolarsi ed andarsi, ho avuto l'esperienza della scoperta positiva. Ah, no, pensavo aveva trovato la filettatrice. No, la cosa è successa? No. E niente, io invece ho scoperto che in questo momento di disgregazione, di allontanamento del nostro rapporto, quella persona che trovavo la sera e che credevo che stesse vivendo supinamente, in realtà mi voleva bene sul serio. E ho scoperto in lei un grandissimo amore. Ah, l'ha scoperta in positivo, si è accorto che c'aveva una moglie nel momento della sfiga e quindi è stato contento di dire... Non nel momento della sfiga, nel momento in cui io pensavo che avrei fatto bene ad andarmene e ad andare altrove con altre persone, in altre esperienze. Ah, no, quindi lei c'aveva adesso, tradotto in termini comprensibili, aveva un amante, accannato dall'amante, si è accorto che in fondo la moglie era meglio. Scusi, no, sono radicalizzato. Non era questo l'amante. Pensavo, vedevo che il rapporto, a mio modesto modo di vedere, se ne stava andando. Avevamo raggiunto traguardi nella vita, avevamo anche dal punto di vista professionale ed economico, avevamo raggiunto un traguardo. Non c'era più niente da aspettarvi. Non c'era più niente da dire. E invece non mi ero accorto che quella persona che mi stava a fianco in realtà aveva la capacità di amarmi in silenzio, di comprendermi, di sopportarmi anche, ed era, ora me ne accorgo, la persona migliore che abbia mai incontrato. Sarebbe interessante sentire anche il punto di vista della signora, però è interessante sentire questo aspetto. Grazie Alberto. Loretta. Sì, salve, buongiorno. Sì. Buongiorno, allora buongiorno. No, io volevo solo chiedere una cosa. Perché quelle persone che hanno questo giardino segreto spesso consciamente o inconsciamente lasciano delle tracce per essere scoperti? Me ne dica una che lei ha accolto in una persona. Non lo so, delle, o che ne ha seminato? No. Ma no, che ho colto. Nella situazione che ho colto, tagliando di un parcheggio in un posto strano. Un posto particolare. Adesso le è accaduto con suo marito. Voglio dire. Scusi? Con suo marito le è accaduto? Sì. Vabbè, con un suo compagno. Sì. Ha trovato fra i bigliettini in cui lei andava periodicamente a mettere le mani. Era molto semplice, proprio lasciato in bella vista un tagliando di un parcheggio. È un posto particolarmente romantico e non era assolutamente una cosa fatta con me. Ma voglio dire, poi vabbè, si è scoperto... Come può essere romantico un parcheggio? No, il luogo in cui quel parcheggio era, non il parcheggio di per se stesso, voglio dire, capito? Cioè, uno lascia una macchina in un posto e poi se ne va. Ma cosa c'era? Un tramonto, in riva al mare? Cosa per capire il contesto? Sì, diciamo, potrebbe essere riva al mare, come potrebbe essere riva a un lago, riva a un fiume. Ah, ha trovato la macchina parcheggiata sul lungo lago? No, io non ho trovato la macchina. Cioè, il parcheggio della macchina? Nella macchina il tagliando del parcheggio. E lei cosa ha fatto domande? Certo, sì. E lui come ha risposto? Sì, che non c'è stato niente, eccetera. Ma quello che mi ha interessato. Però c'è andato proprio, lì. No, lui ha detto sì, certo che c'è andato. E cosa c'era andato a fare? Una cena. Che non l'aveva detto però? Assolutamente, no, non mi aveva detto. No, ma a parte e ha fatto altre indagini profonde per avere altre prove? Ha fatto altre indagini per avere altre prove? No. È finita così? Beh, insomma, l'occasione è finita così, sì. Diciamo che non è finita, nel senso che uno non è che la possa dimenticare certe cose, così le lasci lì nella memoria, farà nella testa. Gliela farà pagare? Insomma. Sì, a cosa no, non lo so. Ecco, ma cos'è che la sconvolge? Che diciamo questa persona abbia avuto... Ma quello che proprio... Cioè, adesso lei... Una parentesi della sua vita, di anche un'oretta a cena con una persona che non le ha detto, questo è il problema. Sì, è una cosa che mi può infastidire. Insomma, infastidirebbe tutti, credo, almeno se lo facessi io. O lei è ancora più spaventata dal fatto che lui lascia questa traccia perché non ha il coraggio di dire che in realtà ha una favolosa amante con cui va e arriva al lago tutte le volte che può? Insomma, se avesse questa favolosa amante con cui arriva al lago ogni volta che può, me lo potrebbe anche dire a questo punto, no? Cioè, nel senso che vabbè. Mica si dice, credo. Se si dice dopo credo. Uno deve fare la scelta. Io ho deciso che non è così. Cioè, nella mia testa io ho deciso che non è così. Però lo guarda molto... un amante che lui però in certi momenti ha bisogno di, come secondo me la maggior parte degli uomini, di una gratificazione diversa da quella che può dare la moglie o da quella che la moglie non sa dare. Quindi lei ha proprio già deciso che lui ha dei rapporti fisici con questa persona? No. Sennò che gratificazione è? Vabbè, uno può anche bastare sapere che può. Questo chi gliel'ha raccontato questo? Ma questa è una cosa che posso pensare. No, uno deve fare, se no basta sapere. Io dico non per farle del dolore, ma perché così in realtà. No, ma anch'io credo che sia così. Se uno scavalca il fosso che fa tanto così. Di andare in riva al lago e lo nasconde, non è che si ferma lì, sarebbe stupido. Lei deve immaginare che ci sarà anche il dopo. È comunque in qualsiasi caso non un problema mio, capito? Anche suo. È una scelta, uno può decidere di credergli e può decidere di non credergli. Va bene, no? Ci fermiamo qua, credo dare la linea al traffico. Intanto Gianna Schelotto sta scrivendo sul suo blog notes quella che sarà la sua lettura rispetto al dilemma di questa signora, che mi sembra molto chiaramente definito nei suoi margini. Arrivederci, a tra un istante. Melog 2.0. Gianna Schelotto, autrice di Noi due sconosciuti, Viverti accanto e non sapere chi sei, edizione Mondadori. Vedo, per quanto io cerchi disperatamente di riportare il tema su un più vasto spettro, tutti alla fine vanno sempre lì dove la lingua batte e il dente duole. Eppure nel tuo libro parli di tante cose, parli di un marito che alla fine scopre che la moglie andava dall'anziana madre, che lui pensa chissà quale storia avesse, di una sorella che cerca di recuperare la vita di un fratello guardando dei file che lui aveva messo nel computer e via dicendo. È più vasto lo spettro, eppure sempre su quello ci si conferma. Perché? Perché evidentemente sono le esperienze che viviamo di più, sono le esperienze, il rapporto matrimoniale è l'esperienza più simbolica, quella in cui si raccoglie tutto, la gelosia, l'amore, il sospetto, la paura, è tutto lì. E stavo pensando alla testimonianza di quella ascoltatrice di prima e fa pensare a due cose. Una è che il giardino segreto non è più, come dire, un giardino segreto, quando ci si mettono dentro delle cose incongrue come il tradimento, cioè diventa qualcosa di diverso, come se in un giardino noi mettessimo un mobile, che ne so, un armadio, diventa un'altra cosa, cioè appunto a poco dall'essere quell'innocente raccolta di pensieri segreti diventa una specie di garage dove mettiamo tutto quello che non siamo riusciti a dire. È la salma da sotterrare, diventa un'altra cosa. Esattamente. E l'altra cosa è che se questo signore semina tracce, forse ha solo bisogno di attirare l'attenzione di una donna così, come dire, così apparentemente così poco interessata a quello che accade in lui, perché dicendo sì c'è andato, ma certamente non per tradire. Gli uomini hanno bisogno, questa vecchia cosa da nonne di due secoli fa, e si sa che gli uomini hanno bisogno ogni tanto. Esattamente, quindi forse lui sta soltanto cercando di allarmarla per avere da lei più attenzioni, per avere persino un interrogatorio molesto. però questo forse gli darebbe più sicurezza all'interno del rapporto che non quella razionale distanza per cui dice sì lo so ma so che non lo faresti. O forse, ma te lo dico da uomo pieno di difetti, lui vuol semplicemente far capire alla moglie che ha diritto di andarsene qualche volta a fare una cenetta con un'amica, che non c'è niente di male, quindi se no, altrimenti uno farebbe il passaggio ai raggi X di ogni accessorio di vestiario. Chi veramente c'ha l'amante ha delle operazioni di ripulitura dei telefoni, dei vestiti, degli abiti, delle tasche molto minuziosa. Se lascia un bigliettino probabilmente dice guarda, ogni tanto vado a cena con qualcuno che non sei te, non te la prendere. Può essere? Sì, sì e no, nel senso che in genere gli uomini non sono così fiduciosi nella tolleranza delle proprie compagne, perché loro si sentono in colpa e quindi immaginano quello però ci fate sempre facendo sentire in colpa. Noi saremo generosi, ma dobbiamo sempre render conto, sì. È questo. E poi voglio dire, ormai i rapporti coniugali, i rapporti amorosi sono veramente fortemente condizionati dai cellulari, nel senso che sistematicamente ci si dimentica qualche messaggio rivelatore. La gran parte delle scoperte degli sconosciuti accanto a noi avviene attraverso i cellulari ormai, attraverso messaggini dimenticati volutamente o no. Ma infatti la reverginazione quotidiana del cellulare è una pratica che da questi microfoni abbiamo sempre raccomandato. Comunque, preventiva, è come fare la cura ricostituente a primavera ai nostri tempi. Francesco. Buongiorno. Dunque, io volevo intervenire proprio su questo punto. C'è da rilevare una differenza, a mio avviso, neurologica nella capacità investigativa degli uomini e delle donne. Sentiamo cosa sta per dire. No, e quindi vuol dire... Cioè lei vuol dire le donne sono più scafate o viceversa? Come? Che le donne sono più attente e più scafate, no, o viceversa? No, le donne proprio come struttura cognitiva sono dotate della capacità di percepire dei dettagli e come attività loro proprio consueta, normale. Non richiede uno sforzo da parte loro o il sorgere di un sospetto. Diciamo che la donna ti prende sempre in castagna e ti fulmina. Scopre cose pazzesche, vero, sì, senza nessuna ragione, senza nessuna ansia. Anche a distanza. È vero, sì, anche a distanza, sì. Diciamo che previene anche la cattiva intenzione. Il cattivo pensiero viene intercettato e subito frustrato, annichilito, mortificato. Ahimè, questo è un po' il potere delle donne, sì. Io sono assolutamente certo che prima che il mio occhio cada su una scollatura, sì, mia moglie ha percepito il segnale elettrico che porterà i muscoli dell'occhio a indirizzarsi su quella scollatura prima che il movimento avvenga. Sì, guardi, glielo dico da persona anziana ormai al di fuori di ogni tentazione, ma lei può anche fregarsene di quello che pensa sua moglie e continuare a fare quello che la gratifica le fa piacere, perché mica può essere un obbligo. Non è che ci siamo affiliati a dei capo a vita, uno alla fine... No, ma però dico, la donna come attività sua consueta, istintiva, controlla i particolari degli scontrini, gli orari dei parcheggi, i peli su... Cioè è una cosa connaturata. Guardi, lei comincerà a fare questa operazione quando comincerà a sentirsi pudere un po' sulla fronte, se mai succedesse. Se no, altrimenti l'uomo, se proprio non è portato dalla situazione, è più credulone, è più indifferente. Gianna Schelotto, dalla tua esperienza ti risulta quello che abbiamo cialtronescamente trasformato in battuta? Sì, certamente. Ripeto, gli uomini sono molto più superficiali rispetto, le donne sono molto più brave a nascondere quando hanno da nascondere e quindi sono bravissime a percepire i minimi particolari. Sono gli uomini che spesso sottovalutano i segnali che possono lasciare le loro azioni e quindi certo le donne hanno molti meriti nell'investigazione, ma anche perché gli investigati sono piuttosto maldestri. Ma le donne però hanno questa manica larga maggiore, questa generosità nel considerare un po' delle piccole marachelle bambinesche, anche semplicemente lo sguardo, l'intenzione, la marachella nascosta, la piccola bugia. Forse sono meno interessate al nostro giardino segreto di quanto noi siamo a loro. Sì, ma è perché partono dal presupposto che in realtà loro sono le domine assolute, cioè hanno la sicurezza di governare questi segreti e quindi ne possono anche tollerare qualche smagliatura perché sono convinte di governare l'intero giardino e comunque di di poter individuare immediatamente, di poter sgamare immediatamente. Diciamo che la nostra serenità e la nostra tranquillità sta proprio nel continuare a farglielo credere in maniera indissolubile per tutto il tempo possibile. Grazie Gianna Schelotto, grazie Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti, ci sentiamo lunedì. Tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.